stanchino subito, e quella è un po' una paura, vabbè. Sì, vabbè, dai, è importante che mi piaccia a verde, modularci. Dopo se si stanca, ma anche noi, lo stesso, ci stanchiamo, mettiamo tutto da parte, aumentiamo, ci viene, dopo un paio d'anni ci viene torna lo spinto di metterti la radio, ma non sai quante volte l'ho fatto, e buttati su, l'hai ricomprato, Maro. No, ma infatti lo so, e io un po' mi rivedo in lui, perché anch'io poi ho iniziato a comprare, a fare, a scambiare, vendi questo, vendi quell'altro, mi piace quello, stazioni base, veicolari, antenne smontate, piazzate, ma è normale, quindi mi rivedo un po' io, quindi certe volte mi metto anche a ridere. Però niente, vabbè, meglio questo che quei giochi da imbecilli di videogiochi o altre cazzate. Sì, quello al 100%, meglio che si appassioni alle radio che mettersi alla PlayStation. Io conosco gente che dalla mattina fino alla sera è gente grande, gente di 40 anni con questi giochi qua. Infatti lo so, è per questo che preferivo che parlasse alla radio, che tutto sommato è ancora uno strumento che ti insegna a socializzare rispetto a questi videogiochi che invece ti insegnano a estraniarti, poi alla fine a estraniarti dal mondo esterno, perché vivi un mondo, una realtà parallela che non ha neanche senso, e sono tutti convinti con programmi di poter pilotare elicotteri, di poter fare entrare in guerra simulata senza problemi, cioè cose assurde che secondo me ti staccano completamente dalla realtà e non ti rendi conto che ti stai allontanando. Sì, ma così, io guarda sinceramente PlayStation, altre cose che posso dire di giochi non mi è mai interessato perché non mi attiravano. Quello che mi attirava mi ha attirato la radio, ripeto, ho iniziato con questi portatili di qua, con dei walkie talkie, dopo man mano mi attirava sempre di più. Boh, basta, quello che avevo, che mi piaceva erano queste radio qua, basta. Ma giochi a giocare con la PlayStation non mi attirava. Ah, ma poi per quelli di una certa età, cioè già mi fa strano che una persona grande si vada a giocare ai videogiochi, vuol dire che qualche problemuccio ce l'ha, ma quelli di una certa età erano abituati a divertirsi in maniera diversa, era più un'avventura, non era un rintanarsi dentro una casa con un videogioco davanti a un televisore o uno schermo, è assurdo. Quindi era più abituato a giochi avventurosi e creativi, cioè io preferisco che si arrampichi sull'albero anziché vederlo davanti al televisore come un imbecille. Infatti, ma io ne ho visto parecchie, ti ripeto, ne ho visto parecchie, gente di 40 anni in su con questo cavolo di prestigio, con questi giochi da guerra, da Vietnam, ma che cazzo, infatti te lo dicevo, ma che cazzo, a me mi veniva il mal di testa stare attaccata allo schermo con questi giochi qua. Ma poi io non lo so se uno deve allevare un figlio mezzo deficiente e disadattato che passa la maggior parte del tempo che ha libero, disponibile anche dopo la scuola, davanti a uno schermo, ma è assurdo, cioè la trovo una cosa assurda. Lo potresti fare forse lo tollero in una giornata dove c'è un tempo che fuori non puoi mettere il naso, forse, ma neanche, non lo farei neanche, mi interesserei di altre cose, cioè preferirei stare qui a parlare con la radio, a discutere con altre persone, a scambiare opinioni, idee, impressioni, ma qualsiasi altra cosa, ma non stare lì come un cretino. Io per fortuna già l'ho abituato anche ad altre cose, perché molte volte me lo porto con me e andiamo a volare assieme, quindi vediamo posti e emozioni che non è facile provare normalmente, e quindi già lo tengo impegnato, però questo diciamo che è un diversivo, un passatempo di quelli un po' più tranquilli e rilassanti, ecco. Ma è meglio così, infatti, meglio così, perché i ragazzi di oggi stanno sempre con questi giocattoli, telefoni e prestigio, quando sono ragazzino io non sapevo neanche che cosa vuol dire un apprendiscio. E andavamo a giocare, facevamo cazzate, suonare il campanile, ma da ragazzi. Ma questo cavolo di apprendiscio non sapevo neanche che cosa era, mai avuto in vita mia. Sì, ma è tutta un'invenzione commerciale per rendere le persone schiave, schiave di un qualcosa, è normale, è normale, io lo capisco, che chi ha intenzione e chi ha interesse a vendere queste cose, è chiaro che le deve diffondere il più possibile e rendere le persone incapaci di poter decidere e di diventare soprattutto schiave di un sistema, quello è normale, anzi è più facile così, è difficile il contrario, starne fuori è difficile, quello è un problema che non è risolvibile facilmente a meno che non è un cervello che funzioni e qualcuno che ti guidi. E purtroppo cosa succede? Che anche questa società di oggi dove tutti lavoriamo, tutti siamo impegnati, i figli sono fuori controllo. Sì, sì, infatti anche per quello che i figli fanno poi la sala che vogliono loro, perché non li controlli, non li dice niente, fanno quello che vogliono loro. Ma sono tutti così, sono tutti così. E poi se le dice qualche cosa che non va bene a lui, si creano i casini dopo. Per forza, perché molte volte con la scusa che sono ognuno per i fatti propri, preso anche dalle proprie preoccupazioni, alla fine mica lo sanno chi hanno in casa, cioè sanno che hanno un figlio che si chiama Tot, ma non sanno chi è realmente, quindi molte volte si meravigliano, dice oh chi è mio figlio, no ma mio figlio è bravo, mio figlio non parla, mio figlio è tranquillo, poi magari si rendono conto che il figlio è da tutt'altra persona, solo lo scoprono magari quando poi è troppo tardi o c'è qualcosa che gli è sfuggito e non si rendono conto e non hanno idea di come recuperare poi, perché certe cose non è che le recuperi da un giorno all'altro. È vero, infatti così, infatti è così, infatti non conoscono il carattere, il comportamento e via dicendo. Dopo alla fine che se ne accorgono che così è normale che è troppo tardi. Ma poi soprattutto non c'è più in ognuno di noi non c'è più un ruolo ben definito, cioè il maestro, il professore quasi quasi non ha più voce in capitolo, la mamma che va a scuola a picchiare il professore che spesso è incapace di gestire dei ragazzi a scuola e che sarebbe il suo lavoro e quindi dovrebbe saperlo fare. Quindi c'è uno scambio di ruoli, poi chi ha quel ruolo non è capace di portarlo a termine, non riesce a affrontare la situazione, qui non se ne capisce più niente, perché mi ricordo quando ero piccolo io che tornavo a casa e che ho subito magari un torto anche lieve e lo andavo a raccontare mia madre mi dava il resto, non mi diceva aspetta che mi cambio che vengo io e vediamo chi è che ti ha fatto il torto che lo sistemo, capito? Sì, infatti così, era così infatti, ma adesso i maestri, i professori, quello che sono, gli alunni dicono le cose loro e se il professore gli dice qualcosa che allora li mettono le mani addosso pure i professori, pensate, gli alunni e i professori. Ci sono stati bambini uniti con la sede. Che il ruolo di ognuno di noi, soprattutto di chi ha un ruolo importante, non ha più quel senso, non ha più quel valore. Cioè ognuno oggi, ognuno come in questi cavolo di social, ognuno scrive, apre bocca e dice quello che vuole e sentenzia, senza riflettere, senza avere cognizione di causa, senza conoscere la materia. Quindi è un caos totale, è un continuo disorientamento e incapacità a capire poi alla fine dove sta la verità. Ognuno dice la sua, sembra che abbiano tutti ragione, la cosa assurda è questa, capito? Che si sono persi completamente il senso delle cose. È chiaro che poi chi è grande, bene o male, si difende. Ma tu immagini un ragazzino che sino oggi, vabbè, prima eravamo ragazzini forse sino a 17 anni, poi iniziavi un pochettino a svegliarti, per una questione anche di sopravvivenza. Oggi sei ragazzino anche a 25 anni, sei un cretino. Sì, ma è così infatti. Mi chiamo di aver sentito Gianni doppio V. Avanti Gianni, in compagnia di Alfa 21. Vai Gianni. Buonasera a tutti e due. Non so se ci sia altra gente, comunque stavo ascoltando un po' il vostro discorso. Sergio c'ha pienamente ragione, è una confusione di idee nei confronti dei ragazzini che leggono, eccetera. Un adulto si fa bene o male la sua opinione e in base a quello che pensa va avanti, ma un ragazzino dice qual è quella giusta, qual è quella sbagliata, la cosa, poi mettono un sacco di notizie false, di... ma insomma, è un casino, questi social sono un casino. C'è chi li prende troppo seriamente e invece c'è chi ci passa molto superficialmente su queste cose, dai. Però in effetti non si sa mai a chi dar retta. Aspetta un attimo. Ok, dai. Ciao già, ben ascoltato. Il problema sai qual è? Che a un certo punto c'è questa perdita di ruolo di ognuno di noi che non è capace di esercitare la propria responsabilità. Ognuno non si vuole più prendere responsabilità di niente, quindi uno può dire una cosa e il giorno dopo negarsene, senza, con una facilità estrema, cosa che prima non esisteva. Prima esisteva un comportamento che era dettato dalla cultura, dall'educazione, quindi se ti dico una cosa è coerente al mio comportamento, se ti do una parola mantengo quella, il giorno dopo non mi nego di avertelo detto, eccetera. Adesso è una confusione continua, per cui uno è facile che si perda in una confusione mentale di una società che non sa più neanche da che parte sta andando. Si sta muovendo ma non si sa da che parte sta andando, dove vuole andare, anche perché si è dimenticata poi velocemente da dove viene, da dove proviene, quindi figurati. Prima era diverso, dai, educazione, i genitori, io mi ricordo mia madre, se andavamo in una casa, mi offrivano qualcosa, io guardavo a lei, lei mi faceva di sì con la testa, prendevo per dire una caramella e me la mangiavo. Poi mi diceva di nuovo, Gianni, prendene un'altra. Io guardavo mamma e mi faceva gli occhiacci, io, no, non ne ho voglia, malgrado magari volessi prenderla, però non ne accettavo. Era un'educazione diversa che c'era. Poi quando uscivamo mia madre apriva la borsetta e mi dava la caramella e diceva bravo, non bisogna essere mai sfacciati nelle case degli altri. Sì, ma quelli erano dei piccoli insegnamenti che poi ti tornavano utili, perché ti insegnavano a stare in mezzo agli altri, ti insegnavano a concepire la vita in un certo modo, perché poi le regole erano importanti. Quando regole non ce ne sono più, tu ti puoi aspettare di tutto e non hai neanche una... a volte non hai neanche la capacità di difenderti, perché non ti puoi aspettare di tutto, quindi sei spiazzato, non riesci a avere un riferimento. E quindi era importante allora avere un'educazione, perché l'educazione era il riferimento poi per avere un conseguente comportamento nella società e quindi col prossimo. Adesso è tutto un casino, adesso è una... In più la televisione nel corso degli anni ha fatto un lavoro devastante, dove ha riempito il cervello della gente di tante cazzate, ha anche informato, quindi da un lato ha fatto anche un'informazione utile, ma dall'altro lato ha riempito la gente di fesserie, l'ha illusa, ha iniziato a illuderla dalle pubblicità finte, fatte male, fatte creando false illusioni, false prospettive, false realtà che poi alla fine hanno portato solo a delusioni. Truffe e tutto di più ci sei. Diciamo che internet è una giungla, devi saperti destreggiare, devi saper dove camminare, se no vieni truffato, vieni preso in una certa maniera, eccetera eccetera. Per quanto riguarda i genitori è un mestiere difficilissimo da fare, forse uno dei mestieri più difficili, però prima diciamo che i genitori erano visti, proprio la figura del genitore era vista proprio come doveva essere, il padre faceva il padre, la madre faceva la madre, adesso anche le donne si vogliono mettere i pantaloni per fare quello che fa l'uomo e viceversa. se un po' di confusione c'è anche nell'educazione dei figli, dai. Vabbè, non è soltanto quello, il problema è anche che molte volte certe abitudini vengono assimilate soprattutto nel lato negativo, perché l'uomo sì, ha sempre avuto un ruolo dominante, a volte in maniera anche esagerata e a volte anche improprio, però poi dall'altro lato c'è la donna che ha copiato anche le cattive abitudini, quindi atteggiamenti scorretti, abitudini scorrette che non erano neanche consone, solo che aveva una gran voglia di pareggiare i conti e poi alla fine si è ritrovata ad aver assimilato il peggio anziché il meglio, quindi non era poi facile raggiungere certi risultati, e lo hanno fatto scegliendo le strade più corte, no? Quindi con una certa prepotenza, arroganza, tutte le abitudini che magari il maschio aveva e che gli erano sempre state abbonate così senza tante discussioni. E poi alla fine questo si è ripercorso anche sui relativi figli, che non è altro che un passaggio generazionale che poi alla fine ne pagano caro le conseguenze, perché cattive abitudini, cattivi esempi, famiglie tutte sconquassate, gente che non sa, gente, famiglie allargate, gente senza né arte né parte, chi si prende, chi si lascia, cioè esempi da non portare avanti, esempi proprio da negativi. Io ti dico una cosa, io ti parlo di me. Nella mia famiglia ho visto sempre un'educazione unica, nel senso che mia madre e mio padre stravedevano, aspettavano la finestra, quando lo vedeva arrivare subito li preparava l'asciugamano pulito e li metteva a pulire, se c'era il minestrone, metteva il minestrone a raffreddare nel piatto, quando arrivava il bacino, la porta, com'è andata la giornata, tutte queste cose qua. Io ho imparato queste cose, ho visto sempre queste cose qua, adesso sembra quasi una storiella, perché vedere certe cose adesso, se usciva uno non usciva l'altro, se non usciva uno non usciva l'altro, erano sempre insieme. Ti dirò che mio padre alla morte di mia madre ha sofferto come un bambino. Diciamo che era una coppia, quello che si dice, perfetta, perché loro erano sempre uno per l'altro, anche da anziani, mi ricordo, giocavano a carte la sera, si facevano le partite, erano sempre insieme, sempre uno per l'altro, erano sempre qui, sembravano un'unica cosa. Ma perché prima era la filosofia di vita, il progetto di vita era completamente diverso, oggi c'è un po' di egoismo, oggi l'interessamento della persona quasi non va oltre, ognuno pensa ai propri interessi, anche all'interno della coppia, non ne frega niente, sono come due binari, viaggiano assieme, però non si incontrano mai poi alla fine, no? Sì, c'era un modo di ragionare diverso. Mio padre era una persona che ha sempre lavorato, sempre pensato alla famiglia soprattutto, per lui la famiglia era sacrosanta. Ma guarda che poi già alla fine di tutto questo vivere, sembra così, no? Sembra così, ma alla fine di tutto questo vivere, oltre la famiglia, poi alla fine non c'è niente, a meno che non fai lo scienziato e ti senti... senti il bisogno di servire la società, di creare qualcosa di utile, altrimenti secondo me è questo, poi alla fine lo vediamo però nell'evolversi dell'umanità, che dietro la famiglia poi c'è il vuoto, non c'è nulla, quindi c'è gente che è alla ricerca di non si sa che cosa, che poi alla fine quello che è importante ce l'ha davanti, ce l'ha sotto il naso. Diciamo che i valori adesso si sono persi, prima si pensava molto più ai sentimenti, ai valori, alle cose diciamo più concrete, adesso si pensa al business, a fare soldi, a speculare l'uno sull'altro, tutte queste cose qua. Prima diciamo si pensava molto ai valori, ai sentimenti, a queste cose qua. Purtroppo questo ha portato un gioco al massacro, che alla fine ci si ritorce contro, perché poi siamo tutti coinvolti da un comportamento negativo. Non è che c'è, cioè, apparentemente sembra che ce ne freghiamo, no? È come quello che dice: guarda che quello lì è tossico, si droga, ti racconta un amico, e tu dici: ma a me che me ne frega. Poi il giorno che quel tossico, per problemi suoi, per continuare a fare quello che sta facendo, se ne entra dentro casa e ti svaligia la casa e te la mette sul quadro, allora ti rendi conto che il problema da quel giorno in poi ti tocca. Ecco, questo è l'esempio che ti voglio dire, quando molte volte ce ne freghiamo di problemi che potrebbero interessarci, anche se non direttamente, però poi alla fine ci coinvolgono. Sì, certo che sì. A proposito, stavo leggendo un articolo su internet di questo ladro che è entrato in questa casa, ha trovato un Doberman, per sua sfortuna. Il Doberman logicamente è un cane da guardia, l'ha morsicato. Cosa ha fatto? Questo è andato dai carabinieri, l'ha denunciato perché dice che lui non poteva svolgere il suo lavoro pacificamente. E dice: con questi cani mi ha tutto morsicato e cose. E al padrone gli hanno fatto praticamente, gli hanno fatto risarcire i danni a questo lato. Ma te li immagini dove siamo andati a finire? Sì, ma questo è un altro di quei problemi che gli italiani ancora non vogliono risolvere, no? Perché se ne fregano, perché pensano che tanto prima o poi, cioè, alla propria persona non tocchi mai. Invece no, il problema della proprietà privata è un problema importantissimo, perché io quando sono rifugiato dentro casa, quando sono una persona onesta e tranquilla, nessuno ti si permette di entrare dentro, nessuno si deve permettere di entrare dentro, perché nel momento in cui tu entri in una proprietà privata e varchi la soglia di una casa dove all'interno c'è una famiglia che è incapace a difendersi, questo è un problema che va risolto. E se il mio cane dentro casa trova il ladro e lo morsica, ha fatto il suo dovere, perché il cane è dentro casa anche per difendere la famiglia e il territorio. Quindi non deve essere abbattuto, non deve essere punito il cane, ma deve essere bensì punito chi è entrato dentro la mia proprietà. Questo invece non è valido per il codice penale, è completamente, questo è un reato, perché tu stai praticamente, ti stai difendendo in maniera spropositata, perché il ladro che è entrato dentro casa tua poteva essere benissimo disarmato e si è trovato davanti un animale grande e grosso dove non aveva scampo nel difendersi. Quindi non è così semplice, le cose cambiano a seconda delle situazioni, e quindi se non queste situazioni non vanno chiarite, è chiaro che poi tu ti ritrovi di colpo dall'altra parte, quindi da vittima ti ritrovi in un attimo, in una frazione di secondo, ad aggressore, a persona che ha offeso. Hai capito? È una cosa assurda. È una legge di capo, è come mio suocero si lamentava sempre dicendo: a cavolo, il mio suocero era ispettore di polizia, noi dobbiamo aspettare sempre che l'altro si tolga la pistola per toglierla a noi, e ci deve sparare, se no non possiamo sparare, non ci possiamo difendere. Prima non era così, però io mi ricordo che la polizia prima toglieva i manganelli e picchiava. Io mi ricordo negli anni 70 e cose, in Piazza d'Italia, quando succedevano quelle risse e cose, vedevi la polizia saliva con i jeep sopra Piazza d'Italia e cose, e cominciava a manganellare gente di tutti i colori, e guardi, ci passava lì, perché mai ci passava anche il tipo che non c'entrava nulla e prendeva colpi lo stesso. Ma per dirti, prima si difendevano, adesso è una legge di cavolo proprio, perché la polizia c'è per far rispettare la legge, e quando uno non la rispetta la legge deve essere punita in qualsiasi maniera. Se uno fa per potente va a picchiare il poliziotto deve intervenire. In America, vedi, sono esagerati, ammazzano la gente, cioè è una cosa troppo spropositata, però almeno il fatto di difendersi quando sono persone prepotenti, li vogliono mettere le mani addosso, ci deve essere. Invece così, se adesso si difendono, ci passano anche dalla parte del torto, è un casino. No, Gianni, ogni realtà ha i suoi problemi, L'esempio che a noi ci fanno dell'America è un esempio completamente diverso, non ci riguarda più di tanto. L'America ha un ordinamento completamente diverso e ha una popolazione che è talmente varia nella cultura e nella, chiamiamolo così, nella razza. che ha necessità comunque di un'applicazione delle regole molto severe, altrimenti sarebbe un caos. Noi bene o male siamo tutti uguali, la pensiamo più o meno allo stesso modo, siamo più facilmente controllabili, ma se tu vai in America, io ci sono stato e ci ho abitato, c'è un razzismo che si respira a ogni angolo, è una questione proprio, la lo senti a pelle. L'uomo di colore non può vedere il bianco non può vedere l'uomo di colore. Quindi c'è una tensione che è resa quasi calma dall'ordinamento giuridico, dalle leggi che ti tengono un po' a bada, altrimenti sarebbe un caos totale. Ed è una cosa che non è facile da risolvere, e non corrisponde alla nostra realtà, è una realtà completamente diversa. Qui da noi lo Stato emette delle leggi che sono di una interpretabilità estrema, cioè ognuno le interpreta a modo suo, sono poco chiare, sono tantissime. Quindi c'è una confusione, in questa confusione chi ci sguazza alla grande sono tutti quelli che ci lavorano, quindi gli avvocati, i magistrati, il potere politico. È una giungla che noi hanno già difficoltà, chi ha detto ai lavori ha già difficoltà a cavarne piedi, figuriamoci da che cosa possiamo difenderci noi. Vabbè, non ammetto comunque il fatto che la ammazzino le persone, ci può essere questo tipo di modo di pensare, di razzismo, roba del genere, però non ammetto che ci sia a capo, quello lì gli ha detto non respirare, che non respirava e lui continuava a abbassare il ginocchio per crepparlo, no, allucinante, è una cosa, c'è troppa violenza da parte della polizia da quelle parti, io capisco che sia difficile tenere a bada questo tipo di popolazione, però non percepisco il fatto che ammazzino le persone, quello. Ma il problema, ti ho detto che è un problema atavico e anche comportamentale, cioè adesso ti faccio un esempio, se a te ti fermano in un posto di blocco in America, no? Tu sei in macchina e ti fermano, tu mica fai come qui in Italia che potresti aprire lo sportello e scendere e dire cosa c'è, quello non lo puoi fare, perché se lo fai così ti sparano immediatamente, perché? Perché c'è una delinquenza talmente esasperata che io poliziotto, perché ti devi mettere anche dalla parte dei poliziotti, mi devo tutelare, perché quello che scende, siccome c'è una vendita semilibera delle armi, cioè nel senso, in alcuni stati puoi andare liberamente a comprarti delle armi, in altri devi avere una licenza che ti dà lo sceriffo. Quindi tu puoi immaginare che le armi in Italia c'erano solo in pochi, quindi forze dell'ordine e molti delinquenti. In America le armi ce l'hanno chiunque, perché degli amici con cui io stavo in America, la pistola, la 357 Magnum, ce l'hanno sotto il cuscino, perché sanno benissimo che se qualcuno osa entrare dentro casa di notte mentre loro sono addormentati, la pistola è già carica e pronta a sparare, quindi hai la possibilità, lo Stato ti dà la possibilità di difenderti nella tua proprietà, perché sei protetto dalla legge. Quindi puoi immaginare che essendo quasi tutti armati, i poliziotti sono in una condizione quasi di sono già prevenuti, sanno già che possono avere davanti una persona che ha in possesso una, due, tre, quattro armi e può sparare in qualsiasi momento, quindi figurati tu con quale stato d'animo sono costretti a lavorare. Quindi non voglio difenderli, però cerchiamo di capire un po' qual era la loro condizione. Qua le cose invece sono completamente diverse. Qua lo sfortunato e lo sfigato è anche quello che a casa sua cerca di difendersi e nel difendersi procura danni o morte dell'aggressore. Cioè arriva a, come è successo ad alcuni, ad avere tanti di quei guai per il resto della loro vita che si pentono addirittura di non essere stati ammazzati direttamente dal ladro. Questo sì, è vero. Vabbè, questo fatto delle armi libere però non è una cosa giusta, è sbagliata, perché non si sente altro che presi in ostaggio all'unico insegnante, questo e quell'altro, da un mentecatto che con la pistola di minaccia, eccetera eccetera. Quante volte si è sentito in America cose del genere? Proprio perché hanno le armi libere. No, ma non ti credere già, e quella è un'illusione che ci danno, non ti credere, perché io ci ho vissuto in America e ti posso dire che sparatorie non se ne sentono. Guarda che puoi stare tranquillo, sparatorie non se ne sentono, perché sono coscienti benissimo che a seconda dello stato dove ti trovi, se tu impugni un'arma e spari, guarda che c'è la pena di morte, in certi stati ti ammazzano o con sedia elettrica o con un'iniezione letale. Quindi stai tranquillo che, un freno a certe azioni lo pongono. Quindi la gente capisce che normalmente chi spara o perché è delinquente allo stremo oppure è sotto effetto di droga o di alcol, altrimenti persone normali sono tutti armati ma nessuno spara. Quindi forse si spara più a orgosolo, credimi, forse si spara più a orgosolo in proporzione. Poi considera che là sono migliaia, è come che a te ti resta impresso un aereo che precipita, ma sai quanti aerei volano ogni giorno in tutto il mondo? Migliaia, ed è uno dei mezzi più sicuri al mondo. Sì, questo sì, è vero. Vabbè, comunque, io guarda, uno zio avevo, perché si è morto, perché da 18 anni era a Detroit, nel Michigan. E quando lui raccontava che vedeva gli scippi anche a piedi, per dire, lui ha visto uno scippo a piedi, che questo qui è andato da un marciapiede all'altro, si hanno passato la borsetta, stava scappando e l'ha messo sotto un camion davanti a lui, l'ha schiacciato, è morto schiacciato dal camion, perché stava scappando e non si è accorto che stava arrivando il camion e l'ha messo sotto. Per dirti, quando lui raccontava queste cose sembravano cose dell'altro mondo, quando si vedeva il telefono nei film americani con le macchine, con quei telefoni a cornetta eccetera eccetera, sembravano cose che noi non conoscevamo più. Sì, beh, chiaro, lì certi atteggiamenti assurdi li hanno conosciuti prima di noi, perché esiste gente, tra l'altro, di estrazione sociale diversa, gente di cultura diversa, quindi trovi in America, ti capita che trovi quello ben vestito, elegante, ed è uno schizzoide, un pazzo, oppure ti trovi quello che è vestito da barbone, da cercatore d'oro, ed è una persona tranquillissima. Quindi non hai una metrica per misurare, non vale più, non è come da noi, se tu vedi uno messo male quasi lo puoi classificare all'80%, è diverso, lì completamente non esiste un parametro, quindi ci sono persone completamente diverse per cultura e non hai riferimenti. Sì, sì, sì, è così, in effetti è così, si camuffano, gli aprono lo sportello di corpo, i poliziotti li ho visti in certi filmati, gli aprono lo sportello di corpo e lo fanno scendere dalla macchina. Con le pistole puntate, passi sempre per delinquente con le mani puntate in blocco. Ma anche qua già ci sono i poliziotti strani, e una volta io stavo tornando a pescare, stavo tornando da Porto Torres, dove c'è la strada sorsa di Biliati, proprio dove c'era la fiammassata, che si chiama con altro nome, chiama Guida del Paglio. C'era un autotreno parcheggiato e dietro nascosti c'erano i carabinieri, e praticamente è uscito uno senza giubbotto, senza nulla, si è messo in mezzo strada. Per fortuna io c'avevo l'airbag nella macchina e la macchina mi ha frenato, perché era anche un po' veloce, dico la verità, perché non avevo voluto tornare a casa, che c'avevo un po' di sonno, ero tutta notte pescando. Beh, fatto sta che questo qua mi ferma, si avvicina alla macchina, mi butta la pila in faccia senza dire nulla, e io gli ho detto buonasera, non ha nemmeno salutato, mi ha guardato me stranamente, e gli ho detto guardi, se vuole i documenti ce li ho dietro nel cofano, per evitare di che pensi che facciamo se strane, roba del genere, ce l'ho dentro il cofano perché ho la sacca, la pesca, e ce l'ho nella sacca. Gli ho chiesto forse i documenti, e ho detto beh, solitamente quando si ferma si chiedono i documenti, e ho fatto vada con quest'aria proprio d'acqua. Io mi sono girato e ho detto scusi, io sono un onesto cittadino, se permette non voglio essere trattato come un delinquente, si accomodi, mi ha detto. capito. Ma quello è, succede, è normale, perché in molti campi nessuno è a volte predisposto anche a fare quel tipo di lavoro, cioè ci si è ritrovato dentro e lo fa senza nessun criterio, senza applicare le giuste regole, quindi è normale che trovi in mezzo a tanta gente, qualche deficiente c'è sempre, quello purtroppo. Lì magari sarebbe più necessario fare una visita psicologica prima di assumervi, visto che hanno a che fare spesso con le persone, con la gente, per cui devono avere delle capacità un pochettino superiori alla media per poter anche dialogare con gli altri, anche perché devi cercare comunque di non creare disordine, ma di riappacificare le situazioni e trovare il modo migliore per non mettere la gente a disagio, per risolvere i problemi, perché a volte alcuni di questi li creano, quindi può succedere anche questo, non è... È capitato, capita e capiterà ancora in tutti i campi, soprattutto quando c'è una divisa, uno molte volte interpreta male quella divisa che c'è addosso e la scambia per un potere suo personale, quindi dipende e ci scarica le sue frustrazioni, le sue paranoie, i suoi problemi, e quindi il primo che gli capita sotto molte volte se lo deve anche subire. Ma ci credi che io sono tornato a casa a Tremarella, sono fatto il viaggio tutto a Tremarella, da quanto mi sono spaventato, e è uscito da dentro l'autotreno senza guardare né niente, c'è invece mezzo strada, capito? Cioè tu stai andando a una certa velocità e cosa che ti trovi, la persona che ti esce da dentro l'autotreno si mette in mezzo strada, la macchina dei carabinieri manco si vedeva, era nascosta, capito? Dietro l'autotreno. E vabbè, ma io non mi sono fermato lì, conoscevo il maresciallo e gliene ho parlato e mi ha detto, ho capito anche chi è. Allora lui prima cosa doveva avere giubbotto e paletta, quando l'ha fermato doveva chiedere i documenti, perché in quel momento lui poteva aver fatto qualsiasi reato e sapevamo che macchine erano passate, quindi poteva mandare anche a indagare se poteva averlo fatto. E dice, se lei è d'accordo, noi domani sera lo chiamiamo, viene, dice, ma guarda, io lavoro qua per 8 ore, se poi questo qua lo chiamiamo si vendica ogni volta, no, quello non è un problema, ci sono io quando si vendica niente, quello lì ha fatto già altre cavolate, ha detto. E comunque dice, in ogni caso, molto genericamente, vi ricordo quali sono le regole domani. Ma io ve lo immagino, di queste cose sono successe anche peggio, questo è già un caso tranquillo, ci sono stati casi dove io sono stato prima volta che personalmente in servizio, dove io in servizio lì in Piazza Castello, davanti a me la pattuglia dei carabinieri che si era fermata a fare i controlli, passa un ragazzino in moto, ma un ragazzino che chiunque lo vede che è un ragazzino di quelli tranquilli, in moto, gli toglie fuori la paletta all'ultimo momento, questo non riesce a fermarsi, continua ad andare avanti, quello cosa fa? Prende, estrae la pistola e gliela punta contro, quindi direzione Teatro Verdi, direzione Piazza Castello, e non c'ero io lì in linea col tiro della pistola, io non mi sono neanche mosso perché ho detto non sarà così matto da prendere il grilletto, però intanto la mossa l'ha fatta, e quella era una cosa grave, non era una cosa da prendere così alla leggera. Penso che una pistola dalla fondina non te la puoi togliere se non è più un caso di emergenza, e vabbè, è gente che è un po' esaltato, si credono chissà che cosa. Io guardo, ho sempre rispettato la legge, rispetto sempre una persona onesta e voglio essere trattato da tale. Non mi piace la persona che mi tratta a braccio per la valle interna, queste cose non mi vanno. Infatti gliel'ho fatto presente. E infatti mi ha detto, si accomodi dopo, no? Perché mi ha detto, vada! In un tono proprio che a me mi ha rotto, mi ha urtato i nervi, capito? Stavo, guarda, non so che cosa mi ha capito per mollare qualche ciao. Ma infatti, purtroppo, ma in tutti i campi è così, ormai purtroppo il lavoro non è una scelta che tu fai, ti ritrovi lì a fare quel lavoro lì, molte volte non sei neanche adatto a farlo, non hai le competenze, non hai le capacità, e quindi siamo tutti nel posto sbagliato, molte volte al momento giusto e viceversa, e quindi succede anche questo. Il problema è quando ci sono delle mansioni serie da svolgere, come quelle della salute e della sicurezza, è come quando tu ti ritrovi in ospedale e devi essere operato da uno che è andato avanti e si è laureato a Porcetti e che non ha le capacità e la pratica per poter fare quel tipo di lavoro. Però è arrivato dove è arrivato e tu sei in quel momento lì il destinatario dell'operazione. Che fai? Sì, poi anche quella è proprio una parentesi, non sai mai in mano a chi sei, se non conosci la persona. Io poi che sono stato operato non so manco da chi, cioè non ti metto la corrente e dirti guarda l'equipe che la opera oggi è questa, nulla, proprio non ti dico nulla, capito? Io ho avuto, diciamo, fiducia, se mi è andata bene perché mi è andata bene, ma so di persone che gli hanno fatto una gamba per contare l'altra, eccetera, eccetera. Io mi ricordo una volta in ortopedia, questa ragazza che si è messa a voce, mi ha detto, rovinato, una ragazza giovane, hanno avuto, se hanno messo una protesi, gliel'hanno messa più corta, capito? Ma guarda che non mi stai dicendo niente di nuovo, ma per questo io ti posso continuare a fare un altro esempio, sempre ricollegandoci a un sistema americano. Perché in America la sanità costa? Perché se vuoi usufruire di un servizio serio, ha dei costi. Il servizio serio ha dei costi. Tanto prima o poi arriveremo anche noi a quel sistema, perché la sanità così com'è non può reggere. Quindi tu ti devi fare una piccola assicurazione, più o meno piccola, media, dove se hai necessità di cure vieni assistito nella maniera più idonea, altrimenti ci dobbiamo assorbire la sanità che ci abbiamo, con dei ticket a volte esagerati, prestazioni scadenti, e non ti devi lamentare. Però in America, a New York, un parto costa $12,000. Quindi renditi conto che se tu non sei assicurato, $12,000 dove li tiri fuori, a meno che non sei un riccone? Quindi per avere una sanità che funziona, una sanità efficiente, devi per forza pagare. La sanità che abbiamo noi, una sanità è un survival, è una sopravvivenza, non è una sanità. Vabbè, ma la salute la devi tu tutti, sì. E se uno non può farlo a pagare l'assicurazione, che cosa fa? Muore, cioè, ma la sanità non lo devi tu tutti. Io non vedo una cosa, dovrebbero mettere persone più competenti e vedere un po' con la sanità di aumentare il personale, eccetera, eccetera, di cambiare un po', però ci sono anche le persone che non hanno la possibilità di pagare, di fare, e se si sentono male cosa fanno? Crepa. Allora, il discorso che ci poniamo noi è un discorso fatto al contrario, no? È un discorso fatto al contrario, è come se tu mi stai dicendo che uno sano, forte, che ha le capacità non riesce a lavorare. Due sono le cose, o sei un mandrone o c'hai problemi. Altrimenti se sei nelle capacità medie di procurarti un lavoro, di essere in grado a sostenerti, non dovresti avere problemi. In America è la stessa identica cosa. In America uno che non lavora, il lavoro ad esempio in America si trova, adesso c'è stata questa grossa crisi che ha coinvolto tutto il mondo e quindi c'è stati licenziamenti di massa, eccetera, però l'America è un posto dove ti dà l'opportunità comunque di dimostrare quello che sei, quindi parti da un lavoro basso fino ad arrivare a un livello alto in base alle tue capacità. Qui questo discorso non funziona, perché sai benissimo che se non conosci qualcuno tu nei posti più ambiti non ci arrivi, a meno che non sei un genio, ma sono pochi quei casi. Ma altrimenti qui è un passaparola, è un aiuto tramite conoscenze, non per meriti. Lo sai che in America, mi stava dicendo questo mio amico, un medico, un'infermiera che lavora nel proprio ospedale può mettere una buona parola per te, cioè nel senso stanno cercando degli infermieri. Allora, io ti consiglio, ti propongo questa persona, loro non ti dicono di no, dico sì, bene, falla venire, ti mettono alla prova, se sei capace ti tengono, senza ombra di dubbio, se sei un incapace, te lo dicono in faccia e ti buttano fuori. Vabbè, certo che sì, lo so, purtroppo qua è così. Io dopo l'incidente sono stato mandato via a casa dicendomi che non avevo nulla e cose, e la notte sono stato male e ho dovuto chiamare mio suocero, gli ho detto venga a prendermi in macchina perché sto male, non riesco a respirare, e poi ci avevo tutto il naso intasato, mi hanno dovuto mettere dei tamponi nel naso, in più ero tutto pieno di ematomi, in più c'avevo delle fratture che il dottore così non si è reso conto, non mi ha fatto fare né latte né nulla, e quindi siamo andati a casa. E questo dottore è un imbriagone, perché quando io facevo il servizio ambulato ci chiedeva se ricopriamo la birra, capito? E se andava a bere dentro al bagno, era un alcolizzato. Figurati che ci sono, ritorniamo al discorso delle persone sbagliate nel posto giusto. Tu renditi conto che da qualche anno ormai molte compagnie assicuratrici si stanno rifiutando di fare le assicurazioni a medici che fanno dei lavori importanti, tipo sale operatori eccetera, perché sanno benissimo che certi errori ormai sono all'ordine del giorno, e quindi capiscono che è rischioso per loro assicurare certe persone incapaci. Beh, certo che sì, è come quello che ci ha multicidito, alla fine l'assicuratore dice che cercatelo un'altra perché io qua non ti voglio più, ti mandano via loro stessi. Prima non era così, adesso se tu hai troppi incidenti, non ti mandano via, perché alla fine sono solo dei costi, non dei guadagni, niente, è proprio zero, vai a finire male che sei colpito con certe persone. Quindi, con l'esempio che ti ho fatto già, ti voglio far capire, che lo capisci già da te, no? La colpa di chi è? Del medico incapace o della struttura che l'ho assunto? Perché poi alla fine quel medico incapace di riflesso sputana la struttura, crea problemi a chi comunque gli ha dato il lavoro. Ed è tutta una questione anche qui alla fine di immagine, oltre che di danno causato. Vabbè, certo che sì. Ma adesso si va avanti a cui rincuti, se non c'è il calcio dietro non vai avanti. Purtroppo mio padre ha sempre odiato queste cose, diceva sempre che era piena di marciume la vita, che odiava gli incuti, odiava tutte queste cose. Mio padre non ha mai potuto sopportare la gente che veniva raccomandata. Perché? Perché diceva uno se le cose le fa se le deve meritare, se uno ha studiato e cose deve meritare un posto come si deve, eccetera eccetera, e anche l'operaio deve saper fare l'operaio, però gli incontri sono un marciume, dicevo. No, ma poi questa è ormai da noi è la regola generale consolidata, cioè non è il contrario, un paese grande si fa sulle capacità, non sugli incontri, perché come ti ho spiegato poco fa, io ti posso anche raccomandare, ma poi devi dimostrare che hai le capacità per poterlo fare, che hai le capacità per poterti esprimere, non che io ti raccomando e da lì parte la tua carriera ed è fatta e dimostri che non hai capacità, che non ti sei meritato quel posto, e lì è lì il problema è che questa causa poi a sua volta dei danni a catena che si ripercuotono su tutti noi. E per quello che dico, siamo una nazione di... Una volta mi ricordo, stavo lavorando in Via d'Italia, un barbiere esce e mi fa l'esempio, lo sa, mi ha detto un giorno, lo sa signor Vigile che siamo tutti mantenuti da sotto i beni, vabbè, tutta la struttura, e c'è una, mi pare che mi aveva detto una gozzola, c'è un cuneo, ha detto se leviamo il cuneo ne crolla tutto, mi ha fatto un esempio banale che comunque mi ha fatto riflettere. Ah beh, certo che sì, ovviamente. E purtroppo viviamo in questo tipo di società e o ci adeguiamo o dobbiamo fare una lotta armata, c'è poco da fare, perché non è possibile che tutti questi politici che stanno al potere guadagnino in modo spropositato, e ci siano persone che ci hanno fatto il matto una vita come me, che ho lavorato 38 anni, io adesso ho problemi di salute, non posso più lavorare, questo detto dal medico del lavoro, che malgrado la mia professionalità non mi potevano dare incarichi inferiori perché non posso più fare quel tipo di lavoro con l'azienda. Quindi licenziato e praticamente non riesco a ottenere una pensione. Con l'80% di invalidità, con tutti i problemi che ho, diabete, questo, quell'altro, sono stato operato alla gamba e diciamo che ho avuto diverse cose, c'è un'ulcera diabetica sotto al piede da 5 anni, quindi non posso più fare adesso tipo di lavoro. Ho detto dal medico del lavoro, ho visitato, ho fatto visite, mi ha mandato a fare l'altro e questo, però prima di dire una cosa del genere ci ha pensato due volte. Beh, lo sai che ho fatto domanda di pensione e ancora non me ne hanno dato. Ma perché purtroppo siamo in uno stato dove devi dimostrare chissà quale condizione per prima era un eccesso, prima addirittura se ti mancava una falange della mano, del mignolo, eri invalido tutta la vita. Adesso per dimostrare l'invalidità ti devono mancare almeno due gambe e una mano, quindi le cose si sono completamente invertite e non si trova mai un equilibrio, si va da un estremo all'altro, quindi in più con le regole che abbiamo non c'è tutela per nessuno, ognuno quando gli capita la disgrazia se la deve grattare e questo fa capire che è uno stato che non regge, uno stato fasullo, questo è uno stato dove apparentemente funziona ma poi alla fine quando ci metti la tua faccia e che inizi a sentire un po' la puzza ti rendi conto che le cose non, poi alla fine non stanno così, c'è qualcosa che non va, no? Sì, avanti, chi è? Giuseppe, il controllo per te, il livello QRM, dai, se c'è QRM non ti ascoltiamo più, ti ho sentito, ma ti sento molto basso con una radio di 1. Non so da dove tu stia modulando, noi siamo in Sardegna, la città è Sassari, avanti. Sì, lo ascolti, io non riesco a capire. Mi arrivava con una radio comprensibile, adesso però tra QRM e qualche sovramodulazione, qualche importante, mi è sparito, non lo ricevo più. Da dove stai modulando? Magari la propagazione ce la faccio per sentire se sbaglio. Ascolta, ma da dove stai modulando? Perché arrivi basso, soprattutto di segnale. Addirittura, ben ascoltato allora, ti posso dire ben ascoltato, perché la radio è comprensibile, il segnale è basso e a volte ti trascini dietro anche un po' di QRM e poi a volte sparisci. Però, ripeto, quando non c'è quel QRM, quella radio è comprensibile e quindi ti ascolto bene per la tua posizione. Dove sì. Si sta parlando dal parco dell'Abruzzo. Adesso c'è un po' di QRM forte con la sovramodulazione. Comunque nell'ultimo passaggio mi sei arrivato molto bene, addirittura stai modulando con una boomerang, quindi stai facendo già dei miracoli per quanto riguarda la radio e il segnale, perché noi pensavamo che fossi qui dalle nostre parti, invece stai arrivando tutto sommato forte, io ti ricevo comunque, vai Gianni. Io lo ricevo, ma molto spesso c'è sovramodulazioni, QRM, quindi me lo coprono, capito? Lo ricevo anche io, però a tratti, diciamo, dai. Avanti, l'amico, se mi sta ascoltando. Darmi chissà che insomma che segnali, che aspettative, però va bene, funziona questo. Cappa, dai, in questo passaggio ti ho ascoltato molto bene, dai, ho capito tutto il tuo QSO, diciamo che per avere una boomerang stai riuscendo anche troppo bene, dai, devi essere soddisfatto, non so io come ti arrivo lì, però tu arrivi abbastanza bene adesso, in questo passaggio ho capito tutta la tua conversazione. Avanti di nuovo Sergio. Sì, mi è arrivato forte anche a me adesso, Santiago 5, Radio 5, comprensibile, complimenti, dai, aiutato forse dalla propagazione, io ero convinto addirittura che eri un camperista qua in zona e invece stai arrivando da lontano, arrivi fortissimo tutto sommato, le tue condizioni sono precarie ma un segnale ottimo. La propagazione Giuseppe sta salendo la propagazione, ne sentiamo anche altri oltre te. Ci sono altre sovramodulazioni, ci sono altri CB che arrivano da lontano con segnali comunque forti e un po' ti coprono. Se vogliamo ascoltarlo magari andando in FM Sergio ci riusciamo. Sì, ma voleva provare in USB mi pare per sapere se usciva in USB. A me proprio la banda laterale non mi piace, vabbè andiamo, non c'è problema. Vuoi provare in USB se riusciamo a sentirti? Beh, già. Ehi, è qui anche il Sud Italia che arriva forte. Certo, Sud Italia, che ti sentiamo, dai. La città di Sassari, nord Sardegna, l'operatore Gianni Doppio Rum, avanti. Zappa Corrado, dai, state arrivando abbastanza bene, dai, vi ascolto. Sono in compagnia dell'amico Sergio, che adesso vi passo. Avanti, Sergio. Sì, benissimo, Gianni, grazie. Ciao Corrado, arrivate fortissimi, vi sentivamo in sottofondo. Grazie alla propagazione vi ascoltiamo come se fosse dalle nostre parti. Avanti, K. Ok, Michelangelo, ti ho sentito un po' bassino perché ci sono anche altre sovramodulazioni e un po' di QRM. Sei più basso dell'amico Corrado, comunque sono riuscito a tirarti fuori. Salute anche a te, ti passo l'amico Gianni da Sassari qui. Grazie Sergio, dai, ciao all'altro amico, dai, lo ascolto anch'io un po' più bassino, però lo ascolto. Oh Sergio, poi ti devo fare una puntualizzazione, dai. Poco fa, quando eravamo in banda laterale, per sentire a te mi dovevo spostare verso destra, invece l'amico lo sentivo centrato proprio. Sì, esatto, anche io ho avuto questo problema, esatto, la stessa identica cosa. K Corrado, che ti ascolto, dai, ti ascolto, però a momenti non è una propagazione molto buona, ogni tanto scompare, sovramodulazioni, cose varie, comunque ti sto ascoltando, non so se tu ascolti me, così mi dirai anche un po' come mi stai ascoltando in quella zona. Sta avvenendo la propagazione, sì, ma non è forte, prova, vai tu, dai. Ma no, da quella parte sento comunque tante modulazioni, quindi adesso saluti anche all'amico del Molise, che è entrato appena adesso, ma ricevevo comunque molto forte anche Corrado e Michelangelo senza problemi, solo che a volte subentrano altre sovramodulazioni e si coprono un po' a vicenda, altrimenti li sento molto forti e chiari, Capo, avanti Michelangelo, avanti! Sovramodulato. Sì, dai, lascia un po' perdere per un attimo, non si sentono bene. Ti stavi dicendo già? Ho detto che poco fa, quando ti stavo ascoltando, lui era bello centrato, a parte dovevo andare verso destra, deve essere che si è un po' spostato. È possibile, perché anch'io ho avuto lo stesso problema, che a lui lo ascoltavo bene e per te mi sono dovuto spostare, come dicevi tu, verso destra. Non lo so perché, non lo so. Kappa, vabbè, dai, poco importa, dai, tanto l'interessante è sentirsi e riuscire a spostarsi. Ecco, a me la banda laterale non mi piace per quello, perché c'è quello che è centrato, quello che non è centrato devi stare sempre centrandolo, facendolo, invece in AM, in FM va di gusto, dai. Lo so che c'è questo problema, l'unico vantaggio è il fatto che hai qualche watt in più, Vabbè, lo so, sì, quello è vero, però la ricezione è molto meglio quella della M, secondo me è molto più chiara, molto più anche in FM va molto bene, in FM addirittura è una telefonata, chiudi lo squelce, se arrivano forte ti aprono lo squelce, arriva come una